Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Ecco che come al solito sistemo sempre all'ultimo momento il microfono. Allora, tutto pronto per il debutto in borsa di Enel Green Power, la società di rinnovabili del gruppo Enel che si prepara al doppio sbarco domani sulle piazze finanziarie di Milano e di Madrid. Si tratta della più grande quotazione del dopo crisi, la più grande d'Italia probabilmente degli ultimi 10 anni, la più grande d'Europa dal 2007 ed è una quotazione che si è conclusa positivamente, anche se al di sotto delle aspettative della capogruppo a causa del prezzo ribassato rispetto alle stime. Infatti in molti lo ricorderanno perché abbiamo già dedicato una puntata all'argomento. Quando è partita l'IPO era stata fissata una forchetta possibile di prezzo fra 2,10 euro e 1,8, con la parte bassa appunto della forchetta che è stata poi tagliata a 1,6 euro. Oggi Enel ufficializza l'esito finale dell'offerta, appunto quello che è dato sapere, come si è appreso da diversi giornali e anche dalle anticipazioni appunto date dalla stessa Enel, non è particolarmente brillata la richiesta degli investitori istituzionali rispetto alle aspettative, mentre le prenotazioni di lotti sono andate a ruba fra i risparmiatori, fra gli investitori retail italiani e spagnoli che hanno prenotato quasi 1 miliardo e 300 milioni di titoli. Il lotto minimo era di 2000 azioni, quindi sintetizzando 2000 euro scusate faccio sempre un po' di confusione. Quindi, sintetizzando, il riparto dell'offerta pubblica di azioni, oltre il 77% è andato al pubblico retail e circa il 23% agli investitori istituzionali. E allora, queste sono praticamente le più importanti caratteristiche di questa grande IPO, la più grande per la borsa italiana, ricordo, degli ultimi 10 anni, in attesa di questo debutto a Piazza Affari fissato per domani. Oggi ricapitoliamo un po' la situazione con alcuni ospiti. Ci collegheremo di nuovo con Luca Torchi, che è responsabile Investor Relations di Enel. Nella seconda parte della trasmissione oggi sono fitti gli impegni appunto per il management del gruppo in vista dello sbarco in borsa di domani. Peraltro so per certo che in molti arriveranno direttamente in borsa proprio per fare il simbolico suono della campanella. E con noi questa mattina abbiamo di nuovo due analisti finanziari, la nostra Valeria Novellini, ufficio studi del Sole 24 ore. Valeria, ciao. Buona giornata. E di nuovo con noi Francesco Caricati, analista dell'area risparmio gestito di Consultic. Caricati, buongiorno, anche nell'altra puntata ci aveva aiutato a capire qualcosa di più rispetto a questa operazione. Buona giornata. Buongiorno. Eccoci qua. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi. Ne comincia già ad arrivare qualcuno, adesso speriamo di potervi accontentare. Prima diamo un'occhiata alla borsa e a quello che accade oggi. Abbiamo già dato delle anticipazioni nel giornale radio, come facciamo sempre. La borsa oggi è positiva, brinda al risultato elettorale americano. Ci sono state le elezioni di metà mandato, come sapete l'esito, che era anche abbastanza preannunciato, è stato favorevole ai repubblicani. Non è una caporetto per Barack Obama, ma insomma non è un momento felice in questo momento per il presidente americano. Di fatto Parigi più 0,51%, Francoforte più 0,24%, Londra più 0,17%, FTSE MIB Piazza Affari più 0,54%. In realtà il mercato, come abbiamo già spiegato prima, sta guardando soprattutto a quello che deciderà oggi la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, che annuncia un nuovo maxi piano di stimolo monetario, quindi un programmone di riacquisto di titoli americani. Appunto, siccome il mercato non ha ancora ben capito di che entità sarà questo programma, le attese sono positive. Il mercato azionario da un paio di giorni è ritornato a correre, anche Wall Street ieri ha chiuso positivamente la sua seduta. Un po' meno brillante la seduta del dollaro, euro sul biglietto verde vale 1,40,44. Piazza Affari in questa mattina premia il settore del cemento, Buzzi Unicem più 3,87, Italcementi più 2,31, ma premia soprattutto la galassia Fiat. I titoli ordinari del lingotto salgono del 3,46%, l'azionista di riferimento Exor più 3,26%, in un mercato che ha già superato il dato sulle immatricolazioni diffuso ieri, meno 40% di vendite in ottobre per la società, ma evidentemente si guarda avanti al miglioramento delle stime di crescita che Sergio Marchionne ha indicato qualche giornata fa, qualche settimana fa, per cui si guarda avanti. importanti. STM più 1,98 Mediaset più 1,98%. I conti di Ansaldo penalizzano fortemente oggi il titolo, che segna un ribasso del 2,70%, mentre a distanza abbiamo i ribassi di circa mezzo punto per Campari, per Pirelli, per Bulgari, meno 0,3% per Geox. Direi che possiamo lasciare la borsa di oggi e andare subito al tema di questa mattina. Come vi dicevo, è un caso di borsa quello che affrontiamo, perché c'è grande attesa per questo debutto a Piazza Affari previsto per domani per Enel Green Power. Allora, ribadendo un po', poi spiegheremo un po' com'è andata, come sono state ripartite queste azioni, chi ne ha fatto maggiore richiesta, insomma cosa devono aspettarsi anche i piccoli risparmiatori, direi, Valeria, intanto di cercare di capire di nuovo un po' in quale settore opera questa società. Parliamo di rinnovabili, ma qual è proprio il principale business di Enel Green Power, e su che mercati opera, anche quali sono i suoi principali competitor internazionali? Allora, Enel Green Power, appunto, attiva nel settore delle energie rinnovabili e attualmente è leader particolarmente, e soprattutto lo sarà fra le società quotate di questo settore, nelle società che dispongono energie rinnovabili, produzione di energie rinnovabili da fonte idroelettrica e geotermica, che sono quelle, diciamo, più tradizionali, molto tra l'altro presenti sul territorio italiano, e che garantiscono anche un ottimo tasso di efficienza. È però presente anche in altri settori delle energie rinnovabili, quali soprattutto l'eolico e il fotovoltaico, in piccola misura nelle biomasse. Per quanto riguarda Enel Green Power, diciamo che il suo piano di sviluppo intende puntare particolarmente sullo sviluppo dell'energia eolica, tant'è vero che dei 5,2 miliardi che sono inclusi nel piano di investimenti fino al 2014, 3,5 miliardi sono destinati allo sviluppo di energia eolica. Quindi diciamo che questa è la direzione verso cui Enel Green Power intende andare, e diciamo che è anche quella su cui operano prevalentemente le società diciamo comparabili quotate. Non esiste un comparabile vero e proprio, nel senso che sono diverse appunto per mix di fonti rinnovabili e anche per mercati in cui operano. Le principali quotate sono la spagnola Iberdrola Renovables, che tra l'altro si è quotata a fine 2007, se non mi ricordo male, la portoghese EDP Renovables e la francese EDF Energie Nouvelle, che è attiva quest'ultima anche in buona parte nell'energia solare, a differenza delle altre che sono praticamente tutte sull'eolico. Quindi insomma rinnovabili a 360 gradi, ognuno chiaramente poi bilancia all'interno del proprio business come crede, l'investimento in un ambito piuttosto che in un altro. Questo è il quadro per quello che riguarda Enel Green Power. Allora, Caricati, vengo a lei sempre per spiegare un po' i termini di questa operazione, sia a chi ha aderito a questa IPO, sia a chi non l'ha fatto e magari, vedendo un po' quale sarà il debutto domani in borsa, valuterà se fare un investimento in un momento successivo. Il gruppo praticamente quota in borsa circa il 30% del capitale ed è stata anche piuttosto discussa comunque soprattutto nell'ambito della comunità finanziaria, ed evidentemente anche da parte dei possibili investitori, l'opzione scelta da Enel, appunto, di quotare questa sua controllata per abbattere il proprio debito. Insomma, lei che cosa ne pensa? Perché tra l'altro Enel aveva previsto di un introito di circa 3 miliardi, no? Chiaramente indicando la forchetta di prezzo che era stata individuata inizialmente. Adesso deve accontentarsi di qualcosa in meno, però insomma questa scelta come è stata vista dalla comunità finanziaria? Beh, allora Enel puntava a circa 3,5 miliardi per ridurre il proprio debito, che è sopra i 50 miliardi, portarlo entro il 2010 a circa 45 miliardi. Sì. Da questa offerta ricaverà circa 2 miliardi e mezzo, quindi abbastanza meno rispetto a quanto preventivato, ma comunque in linea di massima dovrebbe raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio anno, quello cioè di raggiungere i 45 miliardi di indebitamento. Quindi bene o male l'obiettivo da parte di Enel, attraverso la quotazione poi di questo spin-off che si dedica alle energie rinnovabili, è stato raggiunto comunque, quindi a livello pratico Enel è riuscita comunque a raggiungere il risultato, e anche se le aspettative erano comunque diverse, ed è stata un po' penalizzato magari il fatto di aver quotato un'azienda che opera in un settore ancora difficile da inquadrare, con delle prospettive, se vogliamo, non particolarmente rosee se da alcuni punti di vista, per la concorrenza che può venire sia dal petrolio che, se vogliamo, anche dal nucleare. Allora, un ascoltatore intanto mi dice: avevi detto bene 2000 azioni, tra 2000 euro 2000 azioni, ho fatto un po' di confusione. Di fatto il lotto minimo caricati, mi aiuti lei in questo, sì, perché tra l'altro anche l'altra volta mi aveva aiutato, il lotto minimo appunto era di 2000 azioni, peraltro c'era anche la possibilità di sottoscrivere un lotto minimo maggiorato. Esatto, di 20.000 azioni. Benissimo. Allora, 800240024 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, 349-238-6666 il numero per gli sms. Un ascoltatore, Antonio da Torino, ci scrive: non ho capito perché il prezzo è stato fissato a 1,60 visto che la forchetta era tra 1,80 e 2010. Insomma, i giornali un po' in questi giorni hanno ricostruito anche la forte battaglia, perché poi il mercato è questo, che si è consumato con i grandi fondi di investimento che dall'inizio, da quello che capisco, avrebbero voluto già vedere un prezzo un po' più contenuto anche nell'ambito della forchetta. Alla fine appunto la società ha ceduto. Valeria, perché è stato fissato 1,60? Che cosa ha detto la comunità finanziaria su questa forchetta inizialmente individuata? Beh, diciamo che la comunità finanziaria non è sicuramente mai stata perplessa sulla qualità della società, ma sul fatto che questo tipo di società, proprio per loro natura, come anche detto prima Caricati, sono molto basate sullo sviluppo delle proiezioni future e sul tipo di investimenti che intendono fare. Il risultato di questi investimenti dipende da tantissimi fattori, molti dei quali non sono sotto il controllo della società, quali ad esempio l'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica, oppure anche, a seconda del tipo di energia che si sceglie, i fattori meteorologici, perché ricordiamo che ad esempio per l'energia eolica, come del resto anche per la fotovoltaica, il rendimento effettivo degli impianti che vengono installati dipende da quanto vento o quanto sole effettivamente si realizzano nelle location dove sono installati questi impianti. Quindi si può addirittura valutare un investimento di questo tipo come il più sicuro possibile, proprio perché un'azienda che fa capo ad Enel, e poi appunto si nota come invece questo business sia condizionato da tanti fattori molto particolari, insomma, quindi magari speriamo che gli investitori ne abbiano tenuto in considerazione. Ma certamente ne hanno tenuto in considerazione. Comunque ricordiamo anche una cosa: come avviene in genere da alcuni anni ormai, la forchetta indicativa di prezzo, questo è stato riportato da tutti gli organi di comunicazione, era indicativa, nel senso che mentre il limite superiore di 2,1 era ritenuto un limite massimo invalicabile, il limite inferiore di 1,8 era un limite eventualmente rivedibile. Anche per questo motivo è stato possibile effettuare una revisione al ribasso di questo valore, e diciamo è stato fatto anche per adeguare la risposta al tipo di investitori che avevano maggiormente richiesto il titolo Enel Green Power, che in questo caso sono gli investitori retail. Ricordiamoci naturalmente che gli investitori retail non possono esprimere una preferenza sul prezzo, semplicemente possono decidere se aderire o meno all'offerta, ed il prezzo poi risulterà dal mercato. Certo, allora prima di cominciare a sentire le domande degli ascoltatori, Giovanni dalla provincia di Milano, la rimando alla seconda parte della trasmissione perché devo andare in pausa, allora non riesco neanche a rifare un'altra domanda a Caricati. Ci sentiamo tra pochissimo. 800240024 il numero verde per i vostri interventi, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, a tra pochissimo. Siamo ritornati in diretta a Salvadanaio questa mattina, stiamo un po' analizzando le condizioni con cui domani Enel Green Power debutterà in borsa. E si è conclusa appunto l'IPO, questo collocamento della società che opera nel settore delle rinnovabili, che è di proprietà di Enel. E allora ci sono tanti aspetti da spiegare, soprattutto in termini anche di aspettative di piccoli azionisti, perché in molti si sono voluti accaparrare almeno un lotto minimo, c'era anche l'opportunità di investire in uno maggiorato. Francesco Caricati, analista finanziario di Consultic, peraltro lo ribadivamo con lei anche nell'altra puntata, puntata in cui abbiamo affrontato questo argomento. È anche una scelta molto coraggiosa quella di investire in borsa in questo momento. Il mercato non è che si può dire che sia ripartito, per cui anche da questo punto di vista forse, non lo so, Valletta, che cosa ne pensa della distanza dei fondi di investimento presa? Perché all'inizio si pensava, insomma, che i fondi accorressero in maniera un po' più forte a questa, a questa IPO. Beh, certo, ancora c'è molta incertezza sui mercati e soprattutto gli istituzionali sono stati abbastanza indecisi, come si è visto nell'investire nel green power. Questo probabilmente perché, soprattutto non tanto per le incertezze legate in generale al mercato, ma anche e soprattutto per le incertezze legate al business proprio di Enel Green Power e quindi alle incertezze legate alla possibilità che in futuro questa azienda possa produrre veramente dei rendimenti aggiuntivi e maggiori rispetto al mercato. Ecco, a proposito di rendimenti, che cosa è stato promesso in questo momento, appunto almeno in fase di collocamento dall'azienda, Caricati? E a livello cedolare il dividendo dovrebbe essere il rendimento complessivo dell'azione, dato il prezzo attuale dovrebbe essere intorno al 7%, quindi un rendimento comunque discreto se paragonato a quello dei principali competitor. Il dividendo in sé dovrebbe essere intorno all'1,5-1,8% e comunque maggiore rispetto a quello che è stato negli anni scorsi e sarà anche quest'anno per i principali competitor o comunque per le aziende confrontabili rispetto ad Enel Green Power. L'azienda ha riconosciuto anche una bonus share, adesso sì. Volevo dare l'equivalente italiano, ma effettivamente un'azione a premio per chi conserva questo investimento almeno per un tot di mesi, Caricati. Sì, per 12 mesi, per chi conserva le azioni, per 12 mesi verrà garantita un'azione gratuita ogni 20 e questo ovviamente andrà un po' ad abbassare il prezzo di carico poi dell'azione e quindi ad aumentarne il rendimento che quindi si porterà intorno al 7%. Allora, Giovanni dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Lei dice, insomma, ci fa una domanda che dice che questa è una cosa che magari potevate chiarire anche dall'inizio. Pronto? Sì, Giovanni. Ah, ecco, volevo sapere Enel Green Power su quale segmento sarà quotata, perché c'è Italia Star, Italia All Share, Italia Tutti Libri. Giustamente, Giovanni, in realtà l'avevamo detto anche l'altra volta, non finisce questo titolo, Valeria, sul principale paniere di Piazza Affari. Perché? Allora, teniamo presente che per quanto riguarda l'ingresso nell'indice FTSE MIB, cioè il principale, esistono delle revisioni periodiche di questo indice per decidere quali società entrano ed escono in base alla capitalizzazione e liquidità. Esistono anche delle possibili revisioni straordinarie nella quale può essere immediatamente effettuato un ingresso nell'indice se viene quotata una società con una capitalizzazione molto elevata. Pur avendo Enel Green Power una capitalizzazione piuttosto elevata, per il momento entrerà semplicemente nell'indice nel segmento standard del mercato telematico azionario, mentre a fine novembre sarà fatta una revisione periodica dell'indice FTSE MIB, nel quale praticamente è certo che dovrebbe collocarsi anche nel Green Power, che a questo punto dovrebbe entrare nel nuovo indice a partire dal 20 di dicembre. Ah, ecco, perfetto. Quindi, insomma, magari al momento non ci sarà, ma ci sarà nel giro di poche settimane. Valeria, una domanda per te da parte di Ferdinando da Bologna, che dice: non vorrei che Enel Green Power fosse sovraesposta nell'eolico e quindi avesse problemi con l'impatto ambientale. Che ne pensate? No, per quanto riguarda l'impatto ambientale, diciamo che ovviamente per quanto riguarda l'eolico, come anche per il fotovoltaico, è chiaro che ci sono degli impianti da installare e hanno anche un impatto ambientale. Però teniamo presente che il piano di sviluppo indicato da Enel Green Power è scelto fra un panel, insomma un grosso gruppo di investimenti possibili sia nell'eolico che nel fotovoltaico, ma soprattutto abbiamo visto nell'eolico, per cui esistono molti siti diversi tra cui Enel Green Power potrà scegliere a seconda che vengano date le concessioni per l'installazione di impianti eolici, quindi ha molte possibilità ed è chiaro che quando viene rilasciato il permesso dalle autorità competenti viene anche calcolato l'impatto ambientale, per cui allora Allora, magari vale la pena rimanere un pochino sull'ambito in cui la società opera, perché alcuni ascoltatori, Valeria, forse non l'hanno compreso bene, non lo volevamo banalizzare in questa maniera, contestano la considerazione che abbiamo fatto prima a proposito del fatto che il business di Enel Green Power, vedo un paio di ascoltatori che citano questo aspetto, abbiamo fatto questa relazione con aspetto meteorologico. Ecco, vogliamo specificarlo un attimo, insomma, l'eolico e l'aspetto meteorologico. Beh, ovviamente, visto che l'energia eolica si basa sullo sfruttamento del vento, è necessario posizionare questi impianti innanzitutto in località che sono scelte appositamente, che abbiano una sufficiente ventosità, perché altrimenti non vi è alcun rendimento degli impianti. Però purtroppo questo non voleva dire appunto che il rendimento del titolo in borsa domani non c'entra assolutamente niente, ma nel medio-lungo periodo, sia nel Green Power come tutte le società che operano particolarmente nel settore eolico, sono soggette ovviamente alle variazioni delle condizioni meteo, perché anche a seconda del fatto che una zona sia comunque più ventosa della media, esistono delle oscillazioni da un anno all'altro, da un mese all'altro, comunque non prevedibili per ovvi motivi, che possono variare l'effettiva produzione che viene realizzata. No, assolutamente non c'entra niente con l'andamento delle quotazioni. Speriamo di averlo chiarito. Allora, 800 24 00 24, il numero verde sempre per le domande degli ascoltatori, 349-238-6666 il numero per i messaggi. Adesso, senza farla intervenire, volevo rispondere ad un'ascoltatrice che si era prenotata, ma mi sembra anche banale mandare in onda questa domanda. Anna, gliela spieghiamo così: perché avete parlato di una forchetta di prezzo? Di solito non si parla di forbice, è la stessa cosa, è un sinonimo, insomma. Caricati, mi aiuti lei, insomma, non è gergo finanziario questa, si tratta di due estremi. Sì, sono i due estremi di prezzo che ha indicato l'azienda. Facciamo anche un pochino, insomma, gli insegnanti. Allora, Enel, investitori Enel e investitori possibili da domani per tutti coloro che hanno prenotato un lotto di Enel Green Power. Allora, molti gli azionisti Enel hanno fatto molta richiesta appunto di nuovi lotti di Enel Green Power. Agli azionisti Enel, nella comunicazione data dall'azienda, sono andate 550 milioni e 548 mila azioni per un totale di 192.762 richiedenti. Allora, siccome molti investitori Enel caricati sono insoddisfatti, qualcuno magari ha fatto anche questa scelta di investimento per poter compensare un po' l'andamento del titolo Enel, che non è stato particolarmente soddisfacenti. Poi chiaramente dipende anche dal momento in cui si è fatta la sottoscrizione di questo tipo di investimento. Molte tranche sono andate sul mercato in quattro operazioni diverse, c'è stato poi l'aumento di capitale, ma non è stato riconosciuto niente agli azionisti Enel in termini magari di qualche aspettativa che qualcuno aveva, tipo una bonus share a loro. C'era un'eventuale promessa se fosse stato necessario andare ad un'azione di riparto, ma questo non è stato. Ecco. Sarebbero stati assegnati in maniera privilegiata agli azionisti Enel. Perfetto. Però ecco, insomma, paragonare l'investimento di Enel Green Power a quello di Enel, secondo lei è ragionevole? Beh, sono due aziende che hanno caratteristiche simili ma comunque molto diverse. Enel è molto più, se vogliamo, difensiva, è un investimento più tradizionale. Enel Green Power è pur sempre un utility, ma un utility più innovativa che distribuisce energia da fonti, cerca di produrre energia da fonti rinnovabili, quindi con diversi presupposti rispetto a quello che fa Enel nella sua attività tradizionale. Enel, tra l'altro, si impegnerà in futuro anche a produrre energia dal nucleare, quindi da fonti totalmente diverse rispetto a quello che è l'energia prodotta da Enel Green Power. Quindi sostanzialmente gli investimenti, seppur equiparabili sotto alcuni punti di vista, sono entrambe delle utility, sono comunque da considerare totalmente diverse. E questo lo si vede anche per esempio nei dividendi che poi sono staccati dall'azienda, mentre Enel stacca un dividendo molto elevato e nel Green Power tenderà a trattenere gli utili per favorire gli investimenti e distribuirà dividendi molto più contenuti, quindi sono due aziende comunque molto abbastanza diverse. Benissimo, e allora Luca Torchia, responsabile dell'Investor Relations di Enel, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. L'altra volta da Londra l'abbiamo avuta ad inizio puntata, questa volta invece ci porta verso la chiusura di Salvadanaio. Intanto, siete pronti per domani? Come siete organizzati anche per il debutto in borsa? So che in molti da Roma verrete a Milano per simbolicamente suonare anche la campanella di apertura di Piazza Affari. Adesso non si fa più materialmente, ma dove andrete a suonarla simbolicamente? siamo prontissimi, ci saranno delle persone che verranno a Milano, ci sarà l'amministratore delegato Fulvio Conti insieme all'amministratore delegato di Enel Green Power Francesco Starace, mentre a Madrid ci sarà il presidente di Enel Green Power Luigi Ferraris, che è anche chief financial officer del gruppo, insieme al presidente di Endesa Borca Prado. Allora, io volevo anche rispondere un po' agli ascoltatori che ci contestano, qualcuno ci dice insomma i toni un po' trionfalistici con i quali parlate di questa operazione. Allora, io penso di utilizzare il tono di voce sempre per tutti quanti gli argomenti, purtroppo questo e non è che lo posso cambiare né mi posso mettere ad assumere un tono da funerale per così enfatizzare di meno un argomento. Detto questo, noi vogliamo parlare di questa operazione perché è enorme. Nessuno dà giudizi sulla validità o meno di questo investimento. Abbiamo cercato di mettere insieme un parterre di ospiti autorevoli per spiegarvela al meglio. Se poi, ribadisco, come per tutte le cose, come per quando fate un prestito, per quando aprite un conto corrente, per quando fate un mutuo, se non vi convince quello che diciamo, ma ci mancherebbe altro, siete assolutamente liberi di fare quello che volete. Ma siccome stiamo parlando della più grande IPO d'Italia, del più grande collocamento in borsa degli ultimi 10 anni, del più grande d'Europa degli ultimi 3 anni, ci sembra il caso di spiegarvelo almeno in un paio di puntate. Detto questo, se non siete convinti e del business di Enel Green Power, del prezzo, di tutto ciò che è successo, appunto anche per il fatto che la società domani viene a quotarsi ad un prezzo inferiore rispetto alla forchetta inizialmente individuata, beh, ognuno è libero di fare quello che vuole, però ecco, nessuno commenti i toni usati perché purtroppo questi abbiamo e non possiamo utilizzarne altri. 800 24 00 24, il numero per le vostre domande. Sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi andiamo a torchiare Torchia, mi faccia passare questo gioco di parole, a tra poco. Allora, abbiamo Luca Torchi, responsabile Investor Relations di Enel, perché domani si quota Enel Green Power, quindi lo abbiamo a disposizione per 10 minuti proprio per conoscere un po' i termini dell'operazione, ormai li conosciamo, ma per rispondere di nuovo anche a tutte le perplessità che da piccoli e grandi investitori sono emerse negli ultimi giorni, anche se poi alla fine l'IPO si è conclusa con grande successo. Allora, partiamo subito da questo primo aspetto, Torchia. Il 77% delle azioni dell'offerta pubblica è andato al pubblico retail, circa il 23% agli investitori istituzionali. Se non ricordo male, le aspettative iniziali da parte dell'azienda di Enel, che controlla Enel Green Power, era per un rapporto completamente capovolto. Immaginavate di avere molta più richiesta da parte degli istituzionali. Probabilmente ci si aspettava anche il boom del retail, ma forse in un'azione di riparto si immaginava di poter distribuire più azioni agli investitori istituzionali. Cosa è successo e come vi spiegate questo esito? Ma intanto mi faccia dire, lei fa riferimento al minimo 15% che era indicato nel prospetto informativo, che non è esattamente l'indicatore che noi ci aspettavamo, ma era una soglia minima, mi faccia dire, di accettabilità della parte retail. Ora, io le ricordo che se noi andiamo a prendere tutte le operazioni sull'equity, quindi sul capitale azionario effettuate da Enel da quando è quotata, quindi le tranche di collocamento successiva alla prima, ma anche il collocamento di terna e l'aumento di capitale, noi abbiamo sempre avuto un grandissimo seguito da parte del pubblico e dei risparmiatori italiani, mai sceso al di sotto del 35-40% dell'offerta medesima. Quindi questa volta l'adesione è stata maggiore, ma devo dire che questa volta probabilmente la domanda da parte del pubblico retail di carta sicura e affidabile su cui effettuare un investimento azionario c'era ed era forte, e quindi noi ci siamo sentiti di venire incontro a questa domanda assegnando una parte maggiore e più significativa del nostro collocamento alla parte retail. Tra l'altro stavo rileggendo anche il pezzo che ha scritto questa mattina la collega del Sole 24 Ore, Laura Serafine, su dati ovviamente che voi avete fornito. Avete soddisfatto soprattutto gli investitori istituzionali italiani rispetto agli stranieri, perché su una richiesta che è arrivata da 163 appunto investitori istituzionali esteri ne avete accontentati 111, mentre sugli italiani su 56 richieste ne avete accontentati 52. Anche questa è stata una scelta precisa? È stata una scelta mirata e finalizzata ad avere un buon equilibrio tra componente retail dei piccoli risparmiatori e componente istituzionale di qualità, e questo per garantire che da domani, cioè da quando la società sarà quotata, la base azionaria che costituirà il flottante di questa società sia una base qualificata e che possa prevenire situazioni di eccessiva volatilità del titolo. Quindi ancora una volta abbiamo voluto garantire un giusto mix di qualità di investitori istituzionali per evitare grossi rischi dal punto di vista di strappi dell'andamento del titolo in borsa. Ora mi faccia dire, nella parte italiana noi abbiamo investitori istituzionali di grande qualità, mi faccia ricordare solo le casse di previdenza assistenza in Arcassa e Empam, mi faccia ricordare il fondo pensioni di Banca d'Italia, ma anche le Generali, Fideuram, grossi fondi che hanno scelto di entrare in Enel Green Power con un'ottica di medio-lungo periodo. Allora, io ricordo ancora, la forchetta di prezzo inizialmente individuata era stata compresa fra 2,1 euro e 1,8, poi appunto il gruppo ha scelto di fissare l'azione ad un prezzo di 1,6 euro, quindi scendendo al di sotto della parte minima della forchetta inizialmente individuata. Per qualche analista, dottor Torchia, lei lo sa perché li incontra tutti i giorni, oltre ad incontrare appunto gli investitori in giro per il mondo, questo prezzo continua ad essere ancora un po' alto. Allora, c'è qualche ascoltatore che è un po' malizioso, dice: ma sì, sai perché gli investitori istituzionali non sono intervenuti in fase di collocamento? Perché si aspettano che in quotazione domani il titolo scenda ancora e comprare domani mattina. Che cosa risponde? Ma io rispondo molto semplicemente dicendo quello che andavamo dicendo nel corso del roadshow di presentazione della società. Questa è un'azienda in cui noi crediamo, è un'azienda che è unica nel panorama delle società quotate operanti nel settore dell'energia rinnovabile, perché ha un'unicità di tecnologie, più tecnologie rispetto a tutte le altre società quotate che ne hanno una sola, l'eolico, mentre questa, oltre all'eolico, anche il geotermico, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico. È una società che opera in diversi paesi, in 16 paesi nel mondo, rispetto ad altre che operano in meno paesi e quindi sono più esposte, mi faccia dire, al rischio regolatorio e istituzionale di uno specifico paese, ed è una società che si presenta con un buon equilibrio fra attività sussidiate attraverso i sistemi di incentivo all'impiego di energie rinnovabili e attività non sussidiate. Inoltre è una società che genera cassa, quindi una società che è in grado fin da subito di garantire un buon mix tra crescita e dividendi pagati. L'unicità di questa società rispetto a tutte le altre società quotate operanti in questo settore rende, a nostro parere, questa società una società di valore, e il valore a cui noi l'abbiamo accompagnata in borsa riteniamo sia essere un valore equo rispetto al quale si potranno poi garantire dei sufficienti rendimenti sia dal punto di vista dei dividendi che verranno riconosciuti, ricordo, con un payout non inferiore al 30% e nella parte più alta della fascia di payout garantiti dalle altre società, sia dal punto di vista della crescita che questa società sarà in grado di garantire ai propri investitori. Quindi le premesse perché questo titolo faccia bene in borsa sono, a nostro parere, ottime. E se domattina dovesse andare male, non gliela voglio tirare, ci mancherebbe altro, che non siamo così scaramantici, insomma, vi aspettate anche una brutta giornata, insomma, avete preso in considerazione anche queste ipotesi? Ma guardi, io ovviamente non ho la sfera di cristallo, i mercati borsistici sono comunque e un certo verso imprevedibili per chiunque, se no saremo tutti magari a goderci il sole caldo in qualche spiaggia tropicale. Guardi, alle Maldive magari. Le faccio sentire un paio di ascoltatori così chiudiamo. Graziano D'Ancona, rapidissimo, buongiorno, grazie. Buongiorno, la mia perplessità è una sola. Questa azienda che genera utili era prima dentro l'azione Enel e quindi l'azionista Enel in sostanza si ricompra una parte dell'azione che c'ha. Sì, questo è il ragionamento che abbiamo fatto anche nell'altra puntata, Graziano, la ringrazio. Torchia, ci attacco anche quest'altra considerazione a quella che ha fatto l'ascoltatore anconetano, che peraltro è delle mie parti, per cui allora lo scetticismo di qualcuno è stato anche riconducibile al fatto che questa IPO, come abbiamo ricordato, va al servizio dell'abbattimento del debito di Enel, obiettivo 3 miliardi, ora si deve accontentare di qualcosa di meno. Sì, guardi, intanto rispondo al gentilissimo ascoltatore che fa un'osservazione dal suo punto di vista più che legittima. Allora, chi compra questa società non si compra, o meglio, si compra un pezzo di Enel che ha delle caratteristiche specifiche, che all'interno del gruppo Enel vengono, mi faccia dire, diluite. Chi compra Enel Green Power compra una società che punta intanto alla crescita della capacità installata, della produzione e quindi dei risultati, e poi al rendimento attraverso pagamento di dividendi. Chi compra Enel invece compra una società più stabile, che punta più a un pagamento di dividendi con un rendimento molto più alto. Ricordo che oggi un titolo Enel rende rispetto ai dividendi pagati qualcosa tra il 6 e il 7%, mentre Enel Green Power renderà rispetto ai dividendi che pagherà qualche cosa nell'intorno del 2%, ma garantirà al suo azionista futuro una crescita molto più significativa di Enel. Quindi chi compra Enel Green Power decide di investire nel gioiello di famiglia di Enel. Dottor Tocca, ci risentiamo tra qualche mese naturalmente per capire se tutte queste promesse sono state esaudite. L'ultima domanda di Angelo da Padova, io non riesco a farlo intervenire perché altrimenti non finiamo in tempo. Leggo io la sua domanda. Angelo ha fatto la domanda per un lotto minimo su due conti correnti, in un conto titoli aveva evidentemente azioni Enel, nell'altro no, e quindi dove aveva un portafoglio Enel già aperto è stato accontentato, dall'altra parte no. Dottor Torchia, su questo aspetto vuole darci dei chiarimenti? Io pensavo che la domanda di retail fosse andata interamente soddisfatta anche perché avesse chiesto più lotti. Non è la stato domanda retail è andata sostanzialmente interamente soddisfatta, ovviamente al netto di qualche strido, e qui la situazione che si è venuta a verificare è, mi faccia dire, da manuale, perché chi è azionista Enel beneficiava di una sorta di prelazione. Benissimo. Quindi la metà dell'offerta era destinata a questi con prelazione. Grazie, in bocca al lupo per domattina, dottor Torchia, buona giornata. Grazie tante, tocchiamo legno, arrivederci. Legno o qualcos'altro. Grazie a Valeria Novellini e Francesco Caricati per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, io non ci sarò, c'è Valeria De Rosa, ritorno venerdì. Allora un salutone a tutti. We'll be right back.